ad alta voce. Monica De Muro legge L'iguana di Anna Maria Ortese. La tavola era apparecchiata come a mezzogiorno, ma ora illuminata da due candele. Vi figuravano alcune bottiglie che il conte aveva portato da bordo e una torta, preparata anche questa da Felipe, e con i seguenti ingredienti: grano bollito, uova e sopra certe strisce di pasta brustolita che per la loro forma, una serie di crocelline punteggiate da grani di pepe, dovevano ricordare ai commensali il mistero della passione e morte di Dio. Cipolle e radicchio, conditi con solo aceto, sostituivano la minestra. Benché la luce non fosse molto alta, era, come sempre, la luce delle candele, malgrado l'assenza quasi assoluta di correnti o spifferi d'aria, l'aria anzi sembrava non muoversi nemmeno, abbastanza vivace, e il suo caldo rosseggiare, percorrendo i volti di quei tre uomini, permetteva al conte di scorgervi un'apparenza, dove non era che immobilità, di animazione, per quanto impercettibile. Quasi che, ipotesi assurda, durante il pomeriggio che egli aveva passato in attonita tristezza, quella stessa tristezza fosse stata consigliata, da segreti fatti, di allontanarsi dall'animo dei Guzman. Ora il conte, sapendo per esperienza come la regola della speranza sia di non muovere un passo senza la sua sorella tristezza, ne arguì che la seconda, avendolo visitato ed essendo tuttora con lui, l'altra dicesse buone parole agli ospiti. E ben volentieri, per amore di quegli infelici, accettava di discorrere lui con questa. Stato d'animo che ben presto si chiarì come l'ingiusta supposizione che nel trattare l'iguana come facevano, quegli uomini fossero contenti e non affatto invece indotti a ciò da miseria o tetraggine. Ora, nel vedere quanto un filo di vitalità abbellisse e ringiovanisse perfino le loro facce allungate, si confermò ancora più nella sua primitiva opinione che solo la povertà e il conseguente dolore fossero causa di quella durezza e crudeltà verso la iguana, e risolse di pensare bene durante la serata al modo di sciogliere con qualche proposta una tanto velenosa situazione. Più volte intanto aveva scorto negli occhi infossati dei due Avaredo non so che lampo d'intesa che attribuì perfino a qualche non intelligente considerazione sul suo abbigliamento, che a quegli uomini selvatici doveva apparire bizzarro se non ridicolo, dove proprio il conte sarebbe stato in diritto di fare apprezzamenti del genere. Poi però, dal modo come essi fissarono più volte un anello che il conte portava al dito e il suo orologio da polso cosparso di brillantini e sormontato da una cupoletta di zaffiro, fu turbato anche da un peggior pensiero che subito, fortunatamente, svanì. E ciò fu quando gli chiesero se il suo orologio era ben regolato e che ora faceva. «Le 8», il conte rispose. Allora essi si scambiarono alcune parolette in un portoghese così selvatico che il conte non afferrò altro, ma era stato detto come casualmente, senza dare a ciò alcuna importanza, che a quell'ora la marea era già alta. L'animazione dei volti, sebbene essi non aggiungessero altro, parve fissarsi in una più cordiale tranquillità, un sentimento di serenità non ignoto anche agli animi più cupi, se tutta intorno è pace, come infatti era a quell'ora nell'isola, salvo, ma forse la sua mente eccitata glielo faceva udire, un vago e interrotto gridare di galline. Il marchese, intanto, chiedeva al conte Aleardo se aveva dato un'occhiata a quei poemetti e che cosa gliene pareva, se potevano interessare Milano. «Certamente, mio caro. A quanto ho potuto vedere è una poesia che si riallaccia direttamente alla dolorosa tradizione. Non è esattamente ciò che va ora a Milano come a Londra, ma intenditori ce ne sono sempre che sanno apprezzare l'antico. Per non dire che, ben lanciate, Anche le opere tradizionali vanno benissimo. Ma vi può essere un'arte, chiese il marchese esitando, fuori dalla tradizione? È questo che tu affermi, se ho ben capito? Non ti sbagli, rispose il conte. Non dovrebbe esservi, in quanto l'arte non vive fuori della vita, la quale, se non è la tradizione di ieri, è però quella di domani, ma a volte si dà arte senza vita, cioè senza necessità. Questo quando il macchinario dell'industria culturale gira da solo allo scopo? Chiese il marchese. Il conte non sapeva che dire in quel momento, parendogli che la descrizione dei fatti nella loro realtà avrebbe deluso il giovane, confermandolo nella bontà della sua determinazione di restarsene appartato. Ciò che, in modo assoluto, non era bene. Allo scopo, rispose perciò, di incoraggiare la produzione, il movimento delle intelligenze, le quali poco alla volta supereranno così infiniti conflitti spirituali ideologici. Il senso di tutto questo, commentò dopo una pausa pensierosa il marchese, è certamente, me ne rendo conto, l'amore per la vita, per la speranza. Ah, è bello tutto questo, dado mio. Dunque nel vostro tipo di società i giovani non sono isolati? Non completamente. Senti, parlare di realismo, che cos'è questo? Dovrebbe essere, rispose il conte un po' impacciato, un'arte di illuminare il reale. Purtroppo non si tiene conto che il reale è a più strati e l'intero creato, quando si è giunti ad analizzare fino all'ultimo strato, non risulta affatto reale, ma pura e profonda immaginazione. Ah, questo io l'avevo sospettato nella mia solitudine, esclamò il giovanetto con un'espressione di gioia che fece uno strano effetto al conte, quasi, benché egli potesse capire, di compassione. E il risultato di ciò, non è vero, Daddo, può essere un superamento delle antiche concezioni di natura e spirito, immaginario e reale, non è vero? Senza dubbio. Il marchese, gettando un sospiro, disse: quanto si può disperarsi nella solitudine? È indicibile, fino alla follia. È tutto ciò perché l'anima avverte il passare del tempo, avverte in qualche modo il pendolo dell'eterno. Ma ciò nelle isole, caro Daddo, è scambiato per sciocchezza o fissazione. Così, in certo modo, io ero nel giusto quando immaginavo che la natura non è affatto così impassibile come taluno, e il riferimento ai fratelli appariva chiaro. Mostra di credere. No, non è affatto tranquilla la natura. Come una madre il cui figlio, spinto da necessità, stia per lasciarla, essa si strugge nelle tenebre. Essa è in allarme e il suo orecchio è incollato su ogni sporgenza dell'aria. E quanti strani rumori che noi giudichiamo dovuti allo scricchiolio di un ramo, al cadere di una foglia ingenua sul davanzale, altro non sono che il suo raspare alla porta dei nostri chiusi ragionamenti per non essere abbandonata, dato che sarà difficile per essa vivere senza di noi. Una delle due candele, perché Felipe aveva fatto un brusco movimento per prendere il vino, cadde, si spense. E il conte non fu messo a parte della violenta commozione che regnava, dopo quelle parole, sul volto dei commensali. Era puro fiorire di amore e terrore nel marchese. Era una specie di avvilimento, quasi una smorfia di comprensione, sulle facce dei fratelli. Egli, il conte, avvertì solo e non senza gioia che dal cuore dei suoi ospiti non era esiliata per sempre la capacità di nutrire teneri affetti, sia pure per una foglia o un albero, e allungando come al mattino la destra mano a prendere quella del giovane. Nulla, mio caro, ci obbliga a lasciare questa natura che non è natura, ma una parte di noi, egli disse. Del resto rallegrati, essa è abbastanza autosufficiente. Dio così volle nel crearla, ben sapendo che un giorno o l'altro l'uomo l'avrebbe lasciata ed essa avrebbe dovuto vivere da sola. E raccontò a questo punto, a conferma della sua credenza, di una pianta di rose lasciata nella sua casa di Bellagio per una distrazione che dopo lo aveva fatto piangere del tutto priva di acqua e che tornando aveva trovato mutata in un girasole. La natura stessa, nella sua infinita amabilità, aveva provveduto alla metamorfosi, in quanto si sa che alle composite non ha bisogno, per fortuna, che pochissima acqua. «Tu sei buono, Dado», esclamò il giovanetto, sollevando verso di lui un volto quasi sommerso dalle lacrime e illuminato non di meno da un radioso sorriso. «Così fosse. In quanto a me, credimi, impazzirei di gioia se sapessi che essa non ha bisogno di noi». Poiché il discorso andava, anche a causa di quelle lacrime, toccando punte di una innaturale disperazione, volle darne ragione raccontando come da qualche tempo, causa il lavoro letterario, aveva un po' abbandonato a se stessa la cara Ocagna. Del resto, acqua non ce n'era quasi. I venti la battevano in genere da ogni parte e il mare, non sempre tranquillo come in quei giorni, scoraggiava i necessari lavori. Senza dire che nell'isola mancavano tutti gli attrezzi utili a un razionale lavoro dei campi e francamente egli non si sentiva di affiancare i fratelli in quella disperata situazione. «Se non è che questo, mio caro», rispose il conte, dopo aver ringraziato il cielo di avergli impedito finora di accennare a una possibile vendita di Ocagna, «permettimi di pensarci io e provvedere a ciò personalmente non appena sarò rientrato a Milano. Ti manderò di là tutto il necessario». «Tu faresti questo, Daddo?» «Se i tuoi fratelli permettono». «O signor conte, si prende troppo disturbo! Non deve dire così», intervennero a una sola voce bonaria, che però lo sguardo malizioso contraddiceva i due Avaredo. In quanto al marchese, di nuovo quella sua gioia, quel suo incanto, dopo aver sostato un attimo sulla sua faccia, come ali di primavera atterrite da un gelo improvviso, si ritrassero. E di nuovo quella faccia era perduta dietro un velo di falsità, da cui uscirono balbettii come questi: «Grazie, grazie, ma non so, ora è tardi, assai tardi, io temo». Sia perché di nuovo abbastanza chiaramente si riudiva quel chiasso delle galline, sia perché sul volto degli Avaredo si disegnava ora, a quel lamento del letterato, un'espressione di fastidio e ritornava quella accigliata chiusura del pomeriggio, si formò nella conversazione un vuoto poco felice. E il conte ebbe tutto il modo di pensare, mentre il suo volto aperto si velava, che delicatezza e rispetto non lo avevano evidentemente assistito. E la sensibilità esasperata di quegli esseri era stata colpita certamente da qualche sua gaffe crudele, come solo i lombardi nella loro rozzezza ne fanno. E abbassando il capo, soggiungeva in un mormorio affaticato: Non dovresti ringraziarmi, non ho nulla. Alle tue opere, tu certo, alle tue opere non pensato». Era questa balbuzie, che nel liscio e calmo linguaggio del conte non si presentava che raramente, dopo un'infanzia in cui per la verità ne fu affetto, uno dei pochissimi segni, insieme a un lento incresparsi della fronte e irrigidirsi dello sguardo, che l'animo suo era sconfortato. E tale sconforto, nella sua bontà, presentavasi solo allorché egli era sicuro di aver offeso alcuno, animale o uomo. Allora quel volto così gaio perdeva tutta la sua felicità e anche il cuore più arido era tentato di dirgli parole rassicuranti. Cosa cui Don Ilario, per la verità, fu pronto malgrado lo smarrimento che dominava tuttora il suo animo. Dato, ascolta, non per orgoglio devo respingere il tuo aiuto. Sempre se il terreno potesse rendere, io sarei in grado in appresso di regolare il mio debito, non per orgoglio. Perché dunque? Te lo spiego, mormorò Ilario senza peraltro nulla soggiungere, e fissava con uno sguardo intenso, come lo vedesse per la prima volta, l'amico. E in quell'esame non aveva l'aria di essere troppo presente a se stesso, ma al Lombardo ciò sfuggì. «Ma il denaro? Che faresti allora del denaro guadagnato coi tuoi poemetti?» ribatté il conte, mentre rianimandosi con tutta l'anima sua decideva che la produzione antiquata del ragazzo doveva tradursi in denaro al più presto, a costo di fondare egli stesso, appena giunto a Milano, una nuova editrice. «Non sarà poco», concluse. La fronte del marchese era tornata pensierosa. «Tu dici, non è il tuo un incoraggiamento, davvero?» «Davvero, si può guadagnare largamente, già te lo dissi». E poiché in qualsiasi modo avvenisse era vero e significava il risorgimento di Ilario, non se ne vergognava. «Ebbene, donerei l'intero ricavato al Circo Cole di Londra», fu l'inattesa risposta. Mentre gli Avaredo, con quella calma indifferenza, quel complice sorriso ad essi abituale ogni volta che riprendevano un discorso del minor fratello, spiegavano che il Circo Cole era stato caro alla defunta marchesa e ora, in netta decadenza per l'incanutirsi degli animi a causa dell'industria, si trovava in gravi difficoltà finanziarie e in procinto di ripiegare per sempre le tende. Era scesa sul volto del marchese una sinistra dolcezza, pari a quelle nubi che dopo una lunga giornata di incertezza cadono ad avvolgere definitivamente il sole, in modo che il suo volto straziato recuperi, almeno nel prossimo tramonto, una parvenza di rassegnazione. Ma il conte, chissà perché, non seguiva più queste infantili spiegazioni, mentre l'animo suo sembrava invece, come spesso gli accadeva, tornato ad altro punto del discorso. Rammentava come Ilario si era illuminato allorché egli aveva accennato a un possibile rifiorire agricolo dell'isola, esprimendo subito dopo dubbi e smarrimenti incredibili e rifiutando ogni aiuto. Perché? Il Circo Cole. Perché? Fece in un mormorio. Né gli pervenne, forse perché quel mormorio non fu udito, alcuna risposta. Contrariato da questi particolari, che rovesciavano nuovamente la situazione nel senso di mostrare un fondo di disperazione senza scampo o alla quale forse non si voleva trovare scampo, il conte cedé per un momento a quelle preoccupazioni o forse ostilità che lo avevano dominato poc'anzi nella sua visita alla cantina. E francamente riconobbe che la dignità nobiliare e lo stesso fantasticare poetico o diritto all'angoscia erano una cosa e il dovere di provvedere ai sottoposti, specialmente quando costoro siano fanciulli o animali, deboli, essere sprovveduti di forza e bisognosi di protezione, un'altra. Mentre così, del tutto involontariamente e solo per forza di logica, stabiliva che l'incuria del marchese era illecita. Già il suo cuore di amico si affrettava a imporsi pazienza, a supporre spiegazioni che domani, venendo, lo avrebbero riabilitato. Ma ciò gli costava uno sforzo non lieve, cui deve si aggiungere, prodotto dalla varia e ricca giornata, un senso di sonno. Si riudì di nuovo nella notte tranquilla il grido delle galline come di creature molestate nella loro pace da un elemento estraneo E il conte, ricordandosi che la iguana, stando alle parole di Felipe, doveva trovarsi a quell'ora nel pollaio, se per prolungare alla notte i suoi servigi di domestica così mal pagata o semplicemente per qualche punizione che si era meritata, non sapeva, ne dedusse che la disgraziata creaturina reagiva probabilmente, come tutti gli oppressi, tormentando qualche altro. E decise che l'indomani, a qualsiasi costo, avrebbe chiesto al marchese di lasciargli portare la servetta a Milano, dove qualche istituto religioso avrebbe preso cura della sua rieducazione ed egli sarebbe andato spesso a trovarla. In viaggio, poi, o le domeniche in parlatorio, avrebbe potuto interrogarla e capire meglio, dalle parole dell'iguanuccia, il male di Don Ilario e che fare per risanarlo. Il quale, mentre il daddo così pensava, lo guardava di nuovo fisso, con uno sguardo triste, come in sogno, e così disse: «Se hai sonno, daddo, non fare complimenti, ti prego. Ora ciascuno si ritirerà nella sua stanza, la notte qui non è breve». «Perché a lui sta calando?» squittì la voce di Ippolito, piena di un motteggio che non raggiunse affatto, nella sua nuova malinconia, l'animo del conte. Senza far mostra d'aver udito, il marchese prese dal tavolo la candela già caduta e che era stata riaccesa, e in silenzio, senza badare ai fratelli, il cui sguardo scintillante nei lunghi volti li seguì nell'accresciuta penombra come calamita, accompagnò il viaggiatore fino alla soglia della sua stanza, augurandogli la buonanotte. Qui i due giovani si strinsero la mano con un sorriso, ma il conte, quando la porta della sua stanza si fu richiusa, già sapeva che il sonno per quella notte doveva considerarsi sparito.